La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti a un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla marcia su Roma guidata da Benito Mussolini il 28 ottobre del 1922. Il successo dell'impresa segnò l'ascesa del Partito Nazionale Fascista e il dissolvimento definitivo dello Stato liberale, già precedentemente in crisi. Ospite ai nostri microfoni lo storico Salvatore Lupo, docente di storia contemporanea all'Università di Palermo. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato a William Wallace, guerriero medievale, simbolo dell'indipendenza scozzese, reso celebre al grande pubblico dal film di Mel Gibson, Braveheart. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Il 16 ottobre del 1922, riunendo a Milano i capi della neonata milizia fascista, Benito Mussolini si era detto pronto a tentare l'impresa di una marcia su Roma che consentisse al fascismo di consolidarsi al potere. Era la decisione estrema, quella più radicale, nella convinzione che i tempi fossero ormai maturi per una soluzione della crisi del governo guidato da Luigi Facta e dello Stato liberale formato in seguito all'unificazione. Ormai da oltre un anno le camicie nere avevano imposto i loro metodi brutali in tutto il centro-nord del paese. Le prove generali di quella che poi il fascismo avrebbe celebrato come la marcia su Roma, proprio in questi giorni, ricorrono i 90 anni da quell'evento, ebbero luogo nella manifestazione che il 24 ottobre del 22 vide convergere a Roma circa 40.000 camicie nere. Le operazioni ebbero inizio a partire dal 26 ottobre. Mentre le squadre fasciste occupavano molte città dell'Italia centro-settentrionale, alcune colonne mossero verso Roma. A guidare le operazioni fu un comitato insurrezionale insediato a Perugia e composto dai cosiddetti quadrunviri. Il segretario del Partito Nazionale Fascista, Michele Bianchi, il maggiore comandante dello squadrismo padano, Italo Balbo, il torinese Cesare Maria De Vecchi, uomo vicino agli ambienti monarchici e militari, il lombardo Emilio De Bono. Mussolini rimase per il momento a Milano. Molte prefetture, gli uffici pubblici e quelli postali vennero occupati dai fascisti. La marcia su Roma poté riuscire in realtà solo perché il re rifiutò di firmare il proclama di stato d'assedio propostogli, anche se senza molta convinzione da Facta. Quella che la propaganda fascista avrebbe poi esaltato come una grande impresa, in realtà fu una conquista del potere da parte del fascismo già in parte preparata dallo stesso Mussolini a livello politico. La cosiddetta marcia su Roma non fu una rivoluzione. L'operazione ebbe successo grazie agli appoggi forniti ai fascisti da un apparato statale profondamente inquinato dopo un biennio di guerriglia squadrista. Non fu nemmeno un colpo di Stato, poiché l'intera vicenda si concluse in realtà con il passaggio dei poteri, attraverso il quale il re conferì a Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo famoso discorso del bivacco, tenuto alla Camera il 26 novembre del 1922, Mussolini evocò minacciosamente i 300.000 giovani che presidiavano le strade, annunciando al Parlamento e all'opinione pubblica che si sarebbe attenuto alle legalità unicamente laddove il suo potere non sarebbe stato minacciato. Del resto, l'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e quella del Gran Consiglio del Fascismo mostrarono subito le crepe che si stavano aprendo nell'ordinamento costituzionale. Già nel corso del 1923, il nuovo capo del governo introdusse il concetto del partito dominante e dichiarò a più riprese che né lui né i suoi avrebbero mai rinunciato a godere dei frutti della vittoriosa rivoluzione dell'ottobre 1922. Si stavano creando le premesse per l'instaurazione della dittatura e per la fine dello Stato liberale. Mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad ogni ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascisti. Potevo, ma non ho almeno in questo primo tempo, voluto. Abbiamo in linea il professor Salvatore Lupo, che è docente di storia contemporanea all'Università di Palermo. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera. Allora, ci aiuti a capire, la marcia su Roma non fu una rivoluzione, non fu un colpo di Stato. E allora di cosa si trattò esattamente? Forse si trattò di un misto tra le due cose e anche con alcuni aspetti di grande bluff, perché sostanzialmente al termine di un biennio di piccola guerra civile, almeno in alcune parti del paese, cioè nell'Italia centro-settentrionale, soprattutto a cominciare dall'Italia centrale e dell'estremo nord-est, le zone diciamo acquisite all'Italia durante al fine della prima guerra mondiale, questa milizia di nuova destra, chiamiamola così, le squadre d'azione fasciste che poi diventano milizia volontaria fascista, si trovano davanti a una situazione per loro difficile, cioè o rientrare nella legalità oppure rischiare che alla fine l'Italia ufficiale, che ha tollerato le loro azioni in sede antisocialista, finisca per pensare a restaurare l'ordine anche contro di loro. E quindi c'è un problema di tempistica, agire prima che subentri al governo qualcuno deciso, addirittura il vecchio Giolitti. E a questo punto fanno una specie di colpo di mano, che è quello di impadronirsi delle zone in cui già sono forti, conquistando le prefetture, e poi convergere su Roma. Ecco, noi abbiamo, professore, riproposto ai nostri ascoltatori alcuni brani del famoso discorso del bivacco tenuto alla Camera da Mussolini il 26 novembre del 22. Ecco, come si inquadra quel discorso nella strategia politica di Mussolini di quegli anni? Mobilitando le squadre e la milizia, Mussolini è riuscito a ottenere che quel pezzo di Italia che già simpatizza per lui, cioè la monarchia, l'esercito, gli consegnino la guida del governo. Solo che la guida del governo, in una finzione o in una realtà di schema legalitario, perché a norma dello statuto il re può dare l'incarico di formare il governo a chi vuole. Solo che nella forma parlamentare che la monarchia italiana ha assunto peraltro fin dagli inizi della sua storia costituzionale, il governo deve passare attraverso la fiducia della Camera. La Camera, anche in conseguenza dell'elezione del 21 in cui i fascisti hanno avuto una certa affermazione, però sono quattro gatti. E allora Mussolini fa questo discorso che esprime appunto la duplicità dell'operazione Marcia su Roma. Da un lato chiede l'avallo della Camera come se niente fosse, ma dall'altro deve chiarire che se l'avallo non ci fosse, lui ha 300.000 giovani pronti misticamente a ogni suo ordine e farà un bivacco di quell'aula sorda e grigia, cioè l'odiato Parlamento, e lì la cosa funziona. Solo lui può frenare questi 300.000 che non si sa bene che cosa poi faranno, perché si sa solo che non è gente molto disciplinata. Solo lui misticamente può fermarli, e dunque l'Italia ufficiale si dovrà fidare di lui, e così avviene. Il ruolo della corona è fondamentale in questo passaggio, che porta di fatto all'affermazione di Mussolini per via legale. Senza l'appoggio della monarchia questo non sarebbe stato possibile, perché il generale Pugliese, a cui era stato dato in un primo momento l'ordine di mobilitare la guarnigione di Roma, era perfettamente in grado di bloccare i fascisti. Cioè l'operazione poi di convergenza della monarchia, che sembra che il monarca si sia rifiutato di firmare lo stato d'assedio, che avrebbe dato i poteri appunto al generale Pugliese di stroncare la sedizione, questo sì è vero ovviamente, perché io non so se questo sia verità o rappresentazione, cioè se veramente il re si sia trovato davanti all'ipotesi reale di firmare lo stato d'assedio, perché è possibile anche che fossero già d'accordo. Ecco, in che misura la crisi dello Stato liberale determina l'ascesa di Mussolini? Mussolini diventa il fascismo, che poi al 22 nessuno sa che cosa sarebbe stato, diventa l'unica soluzione, perché lo Stato liberale, diviso nelle due correnti rispetto al grande problema del retaggio della guerra, quindi diviso dalla memoria delle correnti interventiste e neutraliste, le forze liberali battute frontalmente nelle elezioni del 1919 da socialisti e cattolici, ma con un tasso altissimo di astensionismo, questo bisogna ricordarlo. Quindi esiste un'opinione borghese legalitaria che cerca una nuova forma di espressione politica che non è più il liberalismo. Ed ecco che questi aspetti si condensano in questa milizia: ha battuto il nemico bolscevico e adesso vuole il suo spazio. E lo Stato liberale, per amore e per forza, e la monarchia più per amore e anche un po' per forza, sceglie questa alternativa. C'è un che di imponderabile in qualsiasi scelta politica, è un azzardo, sì. E alla fine gli effetti saranno più catastrofici di quanto certamente tutti gli attori, Mussolini compreso, pensassero in quel momento. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato a William Wallace, condottiero scozzese che guidò i suoi connazionali alla ribellione contro l'occupazione della Scozia da parte degli inglesi di Edoardo I. Wallace è considerato l'eroe nazionale scozzese e la sua vicenda ha ispirato Mel Gibson per il film Braveheart, Cuore impavido, vincitore di 5 Oscar, compreso quello di miglior film. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 22 ottobre alle 18 su History Channel. Braveheart, Cuore impavido, diretto e interpretato da Mel Gibson, si aggiudica 5 Oscar. In seguito Gibson ammetterà di averne romanzato la storia, descrivendolo come un eroe universale. Ma l'autore del soggetto è Randall Wallace, che si è fatto coinvolgere moltissimo dalla storia. Ero alla ricerca delle mie radici, mi trovavo in Scozia. Ho incrociato la statua di Wallace nel castello di Edimburgo e ho chiesto a una delle guardie chi fosse quell'uomo. E lui ha risposto: il nostro più grande eroe. E così ho cominciato a chiedergli informazioni su questo Wallace. È Randall Wallace a inventare il nome Braveheart. Ma il soggetto è ispirato a un poema epico, scritto nel 1470 da un menestrello chiamato Harry il Cieco. La sua storia su questo coraggioso condottiero diventa uno dei libri più popolari mai pubblicati in Scozia. Nel XVIII secolo è secondo solo alla Bibbia. Ma oggi sappiamo che Harry il Cieco non è cieco affatto e scrive la sua opera 165 anni dopo la morte di William Wallace. Fiona Watson, storica del Medioevo. L'intenzione di Harry il Cieco è chiaramente di creare un supereroe della guerra di indipendenza. Non è un normale essere umano, questo è capace di qualsiasi impresa ed è in grado di tenere in piedi praticamente da solo la resistenza contro gli inglesi. Ancora lo sceneggiatore Wallace. Harry il Cieco era un narratore straordinario. Personalmente, ho cercato di scrivere la storia di William Wallace per come me l'ero immaginata. È un uomo comune che guida l'esercito scozzese e si erge a difensore dell'intera Scozia, che ha perso la donna che amava. E non avevo bisogno di approfondirne la vicenda storica in tutti i suoi risvolti. Mi premeva soprattutto catturare la travolgente umanità di questa vicenda. Invece di essere un uomo come tanti, come il film lo dipinge, il vero William Wallace è il figlio privilegiato di un piccolo nobile. Chris Brown, storico. Non esiste alcun collegamento tra l'uomo William Wallace e il personaggio descritto in Braveheart. Non è un ragazzo di campagna, non passa la sua vita a spingere un aratro. Un ragazzo della sua estrazione sociale veniva addestrato fin dalla più tenera età per diventare un cosiddetto uomo d'arme. Dunque William Wallace non è un povero orfano come quello del film. La sua famiglia ha soldi, terre, ed è un guerriero addestrato. Ma è privilegiato solo fino ad un certo punto. I documenti mostrano che non è il figlio primogenito. E nella Scozia medievale è il primogenito che eredita i possedimenti del padre. Quindi William deve cavarsela da solo. Ancora lo storico Brown. Non avevi molte alternative. Potevi consacrarti al Signore, o forse potevi combattere al servizio di qualche nobile o della corona. Erano queste le due opzioni più appetibili. Quale sia la scelta del giovane William dopo aver lasciato casa, nessuno lo sa. Sappiamo invece che il futuro eroe della Scozia finisce per violare la legge. Nel 1296 appare in un cosiddetto plea roll, un elenco di accuse rivolte nei confronti di alcuni soldati inglesi di stanza in Scozia. Ancora la storica Watson. Qui abbiamo un Matthew di York che era stato accusato da Cristiana di Perth di aver rubato un quantitativo di birra nella sua casa. E Matthew era in compagnia di un ladro, William Wallace. Questa è una prova inequivocabile del fatto che prima di prendere parte alla ribellione del 1297, Wallace era un fuorilegge. Senza dubbio aveva già alle spalle un curriculum interessante. Nato nel privilegio, Wallace diventa un volgare criminale ed è in combutta con i nemici giurati del suo paese, i soldati inglesi. Eppure, un anno più tardi, nel 1297, diventerà il salvatore della patria, guidando i suoi compatrioti in battaglia contro gli oppressori. Ma come fa a passare in così breve tempo da ladro di polli a eroe nazionale? L'ascesa di Wallace avviene in un'epoca violenta, quando Re Edoardo d'Inghilterra governa la Scozia col pugno di ferro. Il suo governo fantoccio a Edimburgo riceve l'ordine di tassare il popolo per finanziare le guerre in Europa del sovrano inglese. E ogni resistenza viene schiacciata senza pietà. Ancora lo storico Brown. Giusto o sbagliato che fosse, l'occupazione inglese era considerata vessatoria. E la tassazione a carico degli scozzesi era molto più pesante di quella a cui erano abituati. Nella primavera del 1297 si respira aria di rivolta. Ma secondo il poema di Harry il Cieco, quando Wallace decide di ribellarsi agli inglesi, non lo fa per ragioni politiche, ma per vendicare l'uccisione della moglie, Marion Braidfoot, da parte di uno sceriffo inglese. Ancora lo sceneggiatore Wallace. Quello che mi ha colpito della storia di William Wallace è l'idea che abbia cominciato a combattere quando ha perso la donna che amava. È questo che mi ha ispirato, mi ha colpito al cuore. La sua storia mi ha conquistato. Proprio come Mel Gibson nel film, il Wallace del poema attacca una guarnigione inglese con un gruppo di ribelli. Wallace e i suoi cacciano i soldati dalla città e massacrano lo sceriffo. William Wallace, il figlio di un piccolo nobile, è protagonista di un'ascesa travolgente. Per un breve periodo assume la più importante carica che il suo paese possa offrirgli, ma ora cade in disgrazia. Wallace viene sollevato dal comando dell'esercito. Dopodiché i grandi lord scozzesi firmano un trattato di pace con Re Edoardo, che è un aristocratico come loro, una classe sociale a cui Wallace non appartiene. In Braveheart Wallace viene consegnato agli inglesi, torturato pubblicamente e poco dopo giustiziato. Ma il vero William Wallace si reinventa ancora una volta. Nel disperato tentativo di riguadagnare il prestigio perduto, parte per l'Europa. Fiona Watson, storica del Medioevo. Quello che fa dopo è molto interessante, perché guida un'importante ambasciata scozzese in terra di Francia. La missione di Wallace in Europa ha lo scopo di ottenere il sostegno francese per una Scozia indipendente, ma fallisce. Nel 1302 Re Edoardo sigla un accordo con la Francia e la sua campagna militare contro gli scozzesi continua fino al 1304, quando finisce per sottometterli. Tutti tranne Wallace, che continua a combattere. Un atteggiamento che contribuirà a trasformarlo in un mito di Hollywood. L'uomo che non si arrende mai. Ancora lo sceneggiatore Wallace. Credo che questo possa spiegare come mai Wallace continui ad essere un personaggio così attuale. Per molti è l'incarnazione dell'integrità. Abbiamo tutti paura di distinguerci dalla massa. Al contrario, William Wallace era pronto a seguire il suo cuore. Con grande coerenza. Credo che qui la vera questione da affrontare sia perché ad un certo punto scegliamo di raccontare la storia di un eroe che combatte per ciò in cui crede e in un'altra epoca raccontiamo le gesta di un eroe che si è rifiutato di combattere. Perché siamo figli del nostro tempo. Con le storie che ci raccontiamo l'un l'altro creiamo la nostra identità. Andiamo alla ricerca di un eroe e quando l'abbiamo trovato c'è qualcosa in noi che ci dice sì, voglio essere come lui. È questo il potere del mito. La figura di Wallace, l'eroe, evolve attraverso i secoli. Ma l'uomo Wallace è un prodotto del suo tempo, violento, opportunista e alla fine una vittima di giochi politici molto più grandi di lui. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Braveheart, la vera storia, per la regia di Sean Smith, casa di produzione Blink Films, titolare dei diritti BBC. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 22 ottobre alle 18 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.